Quante sono le anime che di notte viaggiano nel cielo? Quante sono le anime che di notte ci tengono la mano? Quante persone ora sono anime, persone che conoscevamo, e nella sera dentro di noi quanti occhi ha visto spegnere questo mondo? Quanti occhi ha visto piangere questo mondo? Quanta vita in un momento? Quanti pezzi del nostro cuore dietro di sé si è portata, una canzone che vuole ricordare tutti quelli che nel passato sono dovuti restare, una canzone. Chiudendo gli occhi ricordiamo, quante parole muoiono in gola e non diciamo, quanti amici di fianco e davanti, quanti amici che brillanti nel buio, noi brilliamo, e due note di chitarra e un basso ostentato, perché il volto di tutti sia ancora